Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Ricordiamo che andiamo avanti fino alle ore 21.30, ma andiamo subito con la sigla di questo programma. Bene, questa era la sigla iniziale per questo programma che è Zardins Magnetics, che ricordo siamo in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, trasmettiamo da Udine. Anche oggi 19 febbraio 2026 in diretta, ricordo anche che il programma viene gestito dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. Ora andiamo all'ascolto di questa band storica della narco-punk inglese, ovvero i Cress, che nel esattamente 45 anni fa, nel febbraio 1981, fecero uscire questo 7 pollici, che comunque non era la loro prima uscita discografica, comunque già all'epoca completamente autoprodotto dalla loro etichetta. E sto parlando dei Cress, l'uscita discografica ovviamente era sulla Cress Records. questo 7 pollici, un 45 giri, comprendeva due brani, Nagasaki Nightmare e Big A Little A, e noi ci ascoltiamo proprio quest'ultimo, Big A Little A, Crash. Big guy, little life, passing me. Catch in the company, can't catch me. Big guy, little life, passing me. Catch in the company, can't catch me. Big guy, little life, passing me. Catch in the company, can't catch me. Big guy, little life, passing me. Catch in the company, can't catch me. Little A bouncing me. The system I touch, your body won't get me. 1, 2, 3, 4. Start the control, I ain't gonna let it get you. Gonna be a prisoner of bad state sessions. Say you wanna be a summer, gonna be no lecture. The rats will get you. Hello, this is the Lord God, can you hear? Hellfire and damnation, what I've done for you down there. On earth I have ambassadors, archbishop, vicar, pope. We'll find you with morality, you best abandon any hope. We're telling you, you'd better pray, cause you were born in sin. Right from the start we'll build a cell, and then we'll lock you in. We're sitting only judgment, condemning those that stray. We offer our forgiveness, but first we'll make you pay. If they're control, I am gonna let them catch you. Gonna be a prisoner, and bad state section. Say you wanna be a summer, gonna be that lecture. We're out against you, get you, get you, get you, get you, get you. No matter what or where, palace for king and queen, smash for the rich, protection for the wealthy, defense of privilege. They've learned the ropes tonight, they go to civil war, fighting for the ruling class, their battle has not poor. So I just not in this island of the mind. Great being for the bollocks, you bear them behind. Ran every other corner, stand and see when I let fall. God of the future, in with the law. It's there to remind her that I'm a man of what to do. If I'm a sick of life, then it's 3 years on you. It's got to have some folly, you know it's dead at school. It's got to have the number, it's just a bit real. You can be the Antichrist. If you're done should be an anarchist. But no one ever tried to jump a bullet down the steeple. You'll never beat the system, but for me number 10. Sit the dust, I might have been dead, I've been people. You might have said to one, but I'll be back again. If you don't like the rules they make, refuse to play their game. If you don't want to be a number, don't give them your name. If you don't want to be caught out, refuse to hear their question. Silence is a virtue, use it for your own protection. I try to make you play their game, refuse to show your face. If you don't want to be beaten down, refuse to join their race. Be exactly who you want to be, do what you want to do. I am he and she is she, but you're the only you. La guerra globale è l'incendio dell'intera foresta, il fuoco prescritto, la rivoluzione. Bentornate e bentornati all'ascolto di Zardins Magnetics. Questo era così l'incipit che abbiamo proposto nella promo della trasmissione di stasera, e vi chiederete, qualcuno si chiederà, che cos'è il fuoco prescritto. Appunto, il fuoco prescritto è una sorta di tecnica millenaria, ma in realtà non è solo una tecnica, una pratica, è anche una pratica spirituale che gli aborigeni australiani e i nativi nordamericani appunto mettono in atto per la gestione del territorio. E che cosa fanno? Utilizzano il fuoco in modo controllato, lento, a bassa intensità, in modo da prevenire incendi boschivi, insomma, devastanti, migliorare la biodiversità e rigenerare la terra. Questi fuochi vengono accesi all'inizio della stagione secca, quando il clima è più fresco e umido, in modo che appunto si riesca a controllarli. Il fuoco striscia lentamente bruciando la lettiera secca, ma senza uccidere le chiome degli alberi e anche senza ferire gli animali. In questa maniera qua si creano delle aree bruciate e delle aree non bruciate, si riduce il rischio di grandi incendi e si facilita anche la biodiversità, insomma il moltiplicarsi di specie botaniche diverse. E quindi dicevo appunto è il fuoco prescritto è questa pratica spirituale e materiale per prendersi cura della terra rispettando le stagioni e i segnali della natura, e abbiamo scelto appunto questa frase perché vorremmo parlare, tra le altre cose, anche di fuochi, appunto, di fuochi per la vita. その結果として 20万人の人々の尊い生命が奪われたと伝えられています。その3日後の8月9日には長崎にも原子爆弾が投下され、6万人もの人々が亡くなり、現在どのくらいの人々が原子爆弾の後遺症で亡くなっているのかは判明しません。原爆による死因の過半数は火傷であったと伝えられています。原子爆弾の投下地点から半径2分の1マイル以内にいた人々は ほとんど亡くなり、生き残った人々の半数も数週間以内に放射線障害で亡くなりました。長期にわたる放射線障害の悪影響をもたらしています。白血病、放射線障害、発育不全、悪性の病気等は寿命を縮め、そして死に至らせています。放射能は風によって何百マイルもの広範囲に拡散され、 雨や雪に混じって、道路の中に堆積されていきます。地球上で行われる原子爆弾の発生しないことの研究と発射を行います。 Sì, allora iniziamo con il parlare della vicenda di Nathalie e Manuel, due compagni di Monaco di Baviera, che appunto si trovavano, hanno fatto un 6 mesi di carcerazione preventiva e appunto per diciamo delle prese di posizione di ecologismo radicale, diciamo, e questi compagni sono stati rilasciati il 22 settembre 2025 e vabbè, raccontano un po' le condizioni del rilascio, rilasciati perché la carcerazione preventiva risultava troppo insostenibile, diciamo, anche dal punto di vista della giustizia e dello Stato tedesco, e poi vabbè, però con tutta una serie di sorveglianze, angherie annesse connesse. Ma è importante, appunto, di questi compagni è uscita postuma una lettera che appunto avevano scritto insieme, anche se detenuti in due carceri diversi, Nathalie ad Aikach e Manuel a Stadalheim, e però appunto si erano scambiati, avevano fatto in modo di scrivere assieme questa lettera, che poi era uscita nel mese prima, cioè è stata spedita nel mese prima della loro scarcerazione, dove raccontano un po' tutta la loro vicenda personale e politica. E appunto, beh, intanto vi leggo così brevemente la cronaca del loro rilascio. E per Nathalie la porta della cella si è aperta intorno alle 12:30 del 22 settembre 2025. Una guardia le ha comunicato che era stata rilasciata. Non le è stato permesso di vedere le sue compagne di prigionia, che in quel momento si trovavano in isolamento o al lavoro, ma solo di regalare piccole quantità di cibo ad alcune di loro. Poi è stata accompagnata fuori, alle 16 è stata scarcerata. Manuel ha ricevuto la notizia alle 14, dopo l'ora d'aria, ha potuto salutare e regalare gran parte delle sue cose ai compagni di cella, dato che in quel momento l'area del corridoio era aperta. Prima di essere rilasciati dalla custodia cautelare, un agente della K43 stava aspettando ciascuno di noi. Per Manuel c'era il KKK, Criminal Haupt Commissar, un Glaub, e per Nathalie il KOK, Criminal Ober Commissar Meyer, con il compito di impartirci un cosiddetto discorso di ammonimento. In pratica ci hanno intimato di non commettere reati, nemmeno quelli cosiddetti minori, e ci hanno informato di un programma interno di reinserimento sociale. Ci è stato assicurato che le porte della K43 sarebbero sempre state aperte per noi, chiaramente le porte del gabbio sono sempre aperte, mentre il KKK Unglaub si rifiutava ancora di rispondere alla domanda se fossimo sotto sorveglianza. E vabbè, appunto, i compagni ci illustrano vari episodi in cui sono stati oggetto in realtà di sorveglianza e di spionaggio, sia da parte di, a cominciare da parte di un tassista che si è rifiutato appunto di portare in taxi Manuel, e poi insomma tutta una serie di varie fotografie mentre fanno il bagno nel fiume Isar, insomma tutta una serie di spionate di questo genere qua. E vabbè, e però i compagni appunto si chiedono perché ci hanno rilasciato. Cioè, sul momento non capiscono la ragione di questo rilascio, e anche perché al momento del rilascio la ragione è stata taciuta. E in realtà era stata, appunto, scoprono che è stata la Corte d'Appello, ma più precisamente l'Associazione dei Magistrati a ordinare il nostro rilascio. E il nostro immediato rilascio. Il motivo era evidente: il nostro processo era notevolmente in ritardo. E da quando a metà fine marzo era stata presentata l'accusa, l'associazione giudiziaria che risponde al nome di 29esima sezione penale del Tribunale regionale di Monaco, sezione di sicurezza dello Stato, non aveva ancora deciso quando fissare il processo, prospettando addirittura date a partire da gennaio 2026. Ormai era evidente, sebbene sia prassi comune della giustizia bavarese lasciare i detenuti in custodia cautelare in carcere, spesso oltre il termine previsto di 6 mesi, tale prassi è comunque discutibile se applicata in modo così plateale. Però che cosa succede diciamo parallelamente a questo rilascio. È praticamente un agente di polizia dice, cioè come la questa agente di polizia aveva annunciato ai due compagni al momento dell'arresto nel febbraio 2025, come aveva annunciato, appunto, la cosa si avvera, e cioè la nostra casetta nel bosco sarebbe stata rasa al suolo subito dopo il nostro rilascio, con attrezzature pesanti. Hanno dunque demolito quella che un tempo era la nostra casa, e per farlo hanno dovuto aprirsi un varco nel sottobosco della fitta foresta in crescita. Quindi loro si trovano, insomma, in questa situazione di annientamento della loro dimora autocostruita. E i compagni comunque ci dicono: nulla è finito, tutto continua. Dall'aldilà sull'ultima ondata repressiva contro gli anarchici di Monaco. Chi non si aspetta di incontrare un poliziotto nel bel mezzo di un bosco nell'ultimo anno nella zona di Monaco di Baviera ha dovuto ricredersi. I signori e le signore dell'Agenzia per la Sicurezza di Monaco si sono infatti inoltrati nei boschi non per lasciarsi alle spalle la miseria della loro esistenza da tirapiedi di un sistema sfruttatore e intraprendere la difficile ma meravigliosa ricerca di uno stile di vita più libero e dignitoso. Stanchi del grigio cemento dei loro uffici e delle pile infinite di moduli che costituiscono l'essenza del lavoro di un buon poliziotto tedesco. No, la loro missione era simile a quella di tanti esploratori che si addentrano nelle foreste vergini di questo mondo, studiare e investigare una vita che non capivano per poterla controllare meglio. Così nei boschi di Monaco gli agenti dell'SS iniziarono a studiare l'ignoto, due anarchici che vi si erano insediati. Dopo averli osservati, ascoltati, fotografati, seguiti e perseguitati per molto tempo, fecero il passo successivo, catturarono quegli anarchici, li rinchiusero in gabbie, perquisirono e distrussero le loro baracche. Fecero irruzione anche nelle case di altre persone che ritenevano loro vicine, rubarono ogni sorta di beni e cercarono di estorcere informazioni sulle persone oggetto delle loro indagini attraverso interrogatori. Così questi due anarchici si ritrovarono privati della libertà e dei loro cari, degradati a numeri da gestire in una tomba di pietra, condannati ad aspettare. Questi due anarchici siamo noi, Manuel e Nathalie. Cosa è successo esattamente la sera del 26 febbraio dal nostro punto di vista? Verso le 9 di sera, mentre eravamo seduti in una biblioteca di Monaco, siamo stati buttati a terra e ammanettati da una ventina di poliziotti in borghese. Il motivo era un ordine di custodia cautelare per presunto rischio di fuga in relazione al processo Zündlumpen, in corso già da 3 anni. E questo processo Zündlumpen è un processo per un periodico anarchico che è stato pubblicato tra il 2019 e il 2021 a Monaco di Baviera. Praticamente Zündlumpen è il titolo di questo periodico, che significa straccio, cencio in italiano. Avremmo cercato di sottrarci al processo perché vivevamo nel sud di Monaco, in una casetta di nostra costruzione del bosco. In aggiunta ci vengono notificati ulteriori procedimenti investigativi a nostro carico. Ci accusano, insieme ad altri 2 imputati, ora 3, di aver pubblicato un giornale dal titolo Etz Blatt gegen den Windpark, foglio istigatorio contro il parco eolico. Questo giornale, uscito come numero unico nell'autunno del 2024, si opponeva alla costruzione di un parco eolico nella foresta di Oettingen, un progetto pilota dell'industria chimica locale. Il giornale, secondo gli inquirenti, avrebbe incoraggiato la commissione di reati e insultato i politici. Inoltre ci accusano di aver commesso complessivamente 5 incendi nel periodo 2023-24. Si tratta di incendi dolosi ai danni di macchinari edili in un cantiere geotermico a Polling, di un macchinario per lavori forestali parcheggiato nelle vicinanze e di un pozzetto per cavi di una linea ferroviaria adiacente nel mese di ottobre 23, di macchinari forestali nella foresta di Ofoldinger nel mese di dicembre 23, di macchinari da lavoro nella zona del Sud Park a Monaco di Baviera, sempre nello stesso mese, dicembre 23. Di un veicolo ferroviario a Obernaking nel mese di luglio 2024, di una centrale eolica a Berg nel mese di settembre 2024 e di betoniere, una pala gommata e un nastro trasportatore di un'azienda di calcestruzzo sempre nel mese di settembre 2024. Mentre gli sbirri tormentano un sacco di gente che pensano sia legata al nostro giro, noi due veniamo portati in posti diversi e da quel momento non ci vediamo più. Alla Staatsschutzes, sicurezza di Stato, e al Polizeipräsidium, questura. Dopo un breve interrogatorio ufficiale nel quale entrambi abbiamo rifiutato di rilasciare qualsiasi dichiarazione, veniamo sottoposti per molto tempo a minacce e diffamazioni reciproche, nonché a consigli altruistici come quello di prendere in considerazione l'idea di emigrare. Verso mezzanotte arriva anche un agente della squadra cinofila che ci strofina un fazzoletto sul collo per prelevare un campione olfattivo. In seguito veniamo condotti nelle accoglienti celle di detenzione della questura di Monaco, dove ci è concesso trascorrere il resto della notte. E la mattina seguente, luce fissa giorno e notte, una finestra che non si può né vedere né aprire, nessun cuscino, nessuna coperta dalle 6 del mattino e nessuna fodera per il materasso di plastica. Inoltre, il rubinetto di Natalì non funziona, cosa che non interessa minimamente alle guardie carcerarie, motivo per cui alla fine è costretta a bere dal water. Ma in qualche modo superiamo la cosa e veniamo entrambi condotti davanti al giudice. Manuel al tribunale distrettuale e Natalia al carcere maschile di Stadelheim. Uno poi finisce nel carcere maschile di Stadelheim, l'altra in quello femminile di Aikak. We'll be right back. Ecco, ritorniamo alla, al racconto di Manuel e Nathalie. E allora, questa loro lunga lettera è anche, tra l'altro, racconta, diciamo, in maniera anche molto, tra virgolette, spassosa, cioè molto vivace, le loro, tutte le loro avventure e disavventure, e quindi vi invito ad andare a leggerla integralmente sulla Nemesi. Ma per arrivare, diciamo, al per continuare, insomma, sui contenuti della loro incriminazione, appunto, tra le, si diceva prima, oltre a questo, per questo periodico Zündlumpen, vengono incriminati anche per questo volantino, cioè un foglio istigatorio contro il parco eolico, e appunto un volantino che si opponeva alla costruzione di un parco eolico nella foresta di Oettingen, e che è stato pubblicato nel 2024. Allora, intanto bisogna dire una cosa, che queste forme di lotta, insomma, che dei compagni cadono proprio, compreso questo Zündlumpen, cadono nel momento in cui c'è la gestione autoritaria, appunto, della pandemia da coronavirus. In Germania, non stiamo a ripetere, insomma, ne parliamo sempre, in Germania comunque in questo momento qua, cioè il 2020, è il grande momento, come lo definiscono loro, della neonata Agenzia Bavarese per la lotta all'estremismo e al terrorismo. La sigla è ZET. Quindi lo Stato tedesco mette in piedi questo armamentario e vanno appunto a colpire Manuel e Nathalie in base a questo armamentario qua. E tra l'altro ci sono tre inquisiti, che appunto il 3 è il numero minimo per avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 129 del codice penale tedesco, relativo alla costituzione di un'associazione a delinquere dedita alla pubblicazione di un giornale. Ma andiamo a vedere che cosa diceva questo foglio informativo, questo volantino. Allora, e se la popolazione rispondesse con un secco no, un no e basta, un dove volete arrivare, non negoziamo con voi, andate al diavolo. E se ora, se la politica è così corrotta, allora non dovremmo lasciarci coinvolgere fin dall'inizio, non dovremmo nemmeno lasciarci coinvolgere dai mezzi della politica. Ci hanno abituato fin troppo a delegare il controllo del nostro destino ad altri, invece di prendere in mano la situazione e agire. Ci hanno abituato ad aspettare, a non fare nulla, fino a quando non ci è permesso mettere una crocetta da qualche parte e pensare di poter avere voce in capitolo. Ci fanno credere di poter negoziare alla pari con i potenti, ma in realtà ci condannano alla passività e all'accettazione dei loro piani. C'è ancora qualcuno che crede seriamente che il progresso tecnologico renda le persone più felici e serene? O forse tutto questo progresso tecnologico, che invade sempre più ogni aspetto della nostra vita, porta più vantaggi agli altri che a noi? Il mondo continua a essere distrutto allegramente, mentre la propaganda di Stato ci dice che la soluzione sarebbe una riduzione delle emissioni di CO2. Eppure anche le cosiddette energie rinnovabili continuano a devastare il pianeta. Forse non è una buona idea aiutare gli individui a raggiungere il potere o tollerarli una volta che lo hanno raggiunto, a prescindere da chi siano. Forse il problema è proprio l'esistenza di persone così potenti. E poiché nemmeno la democrazia mette in discussione questo rapporto, non sorprende che anche essa sembri servire solo gli interessi dei potenti, o che stia lì soltanto per realizzare i piani dei grandi pensatori, che nelle stanze climatizzate dei loro uffici, loft, ville e lounge, hanno perso ogni contatto con la realtà e non si curano né del singolo individuo, né delle peculiarità di un luogo e della sua comunità, a spese della gente e della sua terra. Allora, questo era il testo del volantino contro il parco eolico in questa foresta, insomma, e per i quali appunto Nathalie e Manuel vengono incriminati. Ma allora, che cosa succede? Che e nel momento in cui questa società chimica Wacker, insieme alle autorità e decidono di installare queste 40 turbine eoliche in questa Oettinger Forst. E questo avrebbe dovuto essere, insomma, il più grande parco eolico della Germania, e nemmeno le persone, gli abitanti della zona accettano questo progetto, e appunto praticamente si oppongono, la popolazione locale cerca di opporsi, e nonostante dipendano per il lavoro, insomma, da questa industria chimica, però cercano di opporsi e protestano, scendono in piazza a protestare. Due comuni praticamente rifiutano a maggioranza la prevista costruzione di 13 turbine eoliche nei loro territori, e niente, e praticamente questo volantino comincia a diffondersi, e quindi c'è uno scambio tra, sì, un dialogo, insomma, con la popolazione locale. Però subito intervengono una legislazione speciale che praticamente impedisce agli enti locali di opporsi alla costruzione dell'impianto. E appunto, come dicevo, questo foglio istigatorio contro il parco eolico viene distribuito in larga scala in diversi comuni, e le varie iniziative civiche prendono posizione pubblicamente, e quindi ecco qua la polizia indaga, e quindi arriviamo, insomma, a questa incriminazione per sospetti reali editoriali. Quindi abbiamo visto che vengono scarcerati nel settembre 2025, però la loro, diciamo, autocostruzione di libertà nel bosco viene distrutta, quindi loro vengono rilasciati, ma le loro tracce, diciamo, di vita vengono, c'è questo tentativo, insomma, di cancellarle. Poi vengono perseguitati perché appunto vengono tenuti sotto sorveglianza continua, provocati, eccetera eccetera. Però che cosa succede? Notizia sorpresa: anche il procedimento, non solo dopo la scarcerazione, anche il procedimento contro il giornale anarchico Zündlumpen non viene avviato. Questa è una notizia proprio di pochi giorni fa, e appunto, e praticamente l'associazione giudiziaria che ha dovuto in qualche maniera scarcerare i due compagni perché i termini della carcerazione preventiva erano andati troppo oltre, si rifiuta persino di portare avanti il progetto contro questo periodico Zündlumpen. Anzi, rifiuta addirittura di aprire il procedimento contro il terzo imputato, facendo così decadere anche il procedimento per associazione a delinquere. E quindi il tribunale ha deciso di delegare il procedimento a carico di due sole persone, al tribunale distrettuale. E ci dicono i compagni tedeschi: in Baviera stanno accadendo cose che nemmeno noi anarchici incalliti avremmo ritenuto possibili. E bon, quindi ci sono, insomma, chiaramente anche per i compagni non è finita qua, nel senso che, come dicevo prima, subiscono diverse pressioni, però intanto sono fuori. E c'è anche questa, appunto, declassazione del processo Zündlumpen. E allora loro ci dicono: anche se il procedimento ai sensi dell'articolo 129 dovesse fallire, i singoli reati, apologia e istigazione al compimento di reati, minacce, dovessero essere giudicati dal tribunale distrettuale, si tratterebbe comunque di un procedimento in cui verrebbero perseguiti e messi sotto accusa la nostra ostilità verso ogni forma di autorità, le nostre idee e le nostre posizioni anarchiche. La persecuzione che ha fatto seguito al rigetto parziale dell'accusa dimostra che lo Stato continua senza sosta a perseguire l'obiettivo di distruggere i progetti anarchici e di reprimere un intero ambiente, e sta a noi dimostrare che la nostra passione per la libertà è più forte di qualsiasi censura e di qualsiasi muro di prigione. Niente amore per i funzionari statali, libertà per tutti. We'll be right back. Dimenticavo di dirvi che è disponibile una traduzione in italiano dell'antologia dei Zünd Lumpen, appunto, edizione Il Pennato. Potete scrivere, se vi interessa, a edizioni Il Pennato @canaglie.net. Continuando a parlare di fuochi per la vita, appunto, vi annuncio un'iniziativa che si svolgerà questo sabato 21 febbraio, un presidio al CPR di Gradisca di Sonto in solidarietà ai reclusi a partire dalle ore 16:30. Per denunciare la guerra in atto alla popolazione migrante e ai nemici interni, per lottare contro i nuovi strumenti di repressione, marginalizzazione ed eliminazione di chi è considerato eccedenza dalla società dello sfruttamento, per l'urgenza e la necessità di rendere udibile la nostra solidarietà, costruendo legami di complicità con le persone rinchiuse in quel lager. Con la Palestina nel cuore, con i rivoltosi di ogni prigione, fuoco a tutte le galere. E ricordiamo anche che proprio di questi giorni l'ennesima morte di CPR, questa volta nel CPR di Bari Palese, è morto questo ragazzo di 25 anni che si chiama Simo Said, si chiamava, appunto morto a causa dell'incuria, della disperazione, di tutto quello che si consuma in questi veri e propri lager di Stato. E di questi giorni c'è stato anche il primo grado al processo per la morte di Moussa Balde, una morte appunto di CPR, questa volta nel CPR di Torino, avvenuta nel 2021. È stata condannata per omicidio colposo a un anno di reclusione la direttrice generale dei servizi alla persona del CPR, che si chiama Annalisa Spataro, e anche c'è stata una condanna per l'ente gestore, la GEPSA, a risarcire la famiglia e le parti civili. E sì, chiaramente assolti poliziotti e medico della struttura, e non viene attribuita nessuna responsabilità a prefettura e questura. E in questi giorni ricordiamo anche c'è stata una rivolta nel CPR torinese, con la chiusura di una stanza andata in fiamme, e in seguito a questa rivolta c'è stato un violento pestaggio e un trasferimento in carcere di almeno due persone. Quindi ribadiamo l'importanza di questo presidio di sabato 21 febbraio al CPR di Gradisca di Sonso a partire dalle 16:30. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band francese, il Litige. Però prima di, insomma, anche se abbiamo già in sottofondo sempre questa band al femminile, volevo anche ricordare quello che abbiamo un po' ascoltato finora tra i vari interventi, ovvero ci siamo ascoltati un vecchio 7 pollici di una band, diciamo, della zona di Gorizia, Cormons, ovvero gli Spacciatori di Musica Stupefacente, e poi alcuni brani presi da una compilation che era uscita nel 1996, dove raccoglieva ben in 3 CD un disastro di band del punk hardcore, anzi della narco punk hardcore svedese dei primi anni 80, tra l'altro triplo CD mai stato ristampato, vabbè, chi se ne importa, e rimaniamo con i Litige. Un saluto a tutte e tutti voi. Un saluto, dicevo, tutte e tutti voi sicuramente, e che ci ascoltate per questa On the Furlane. Anche da parte mia e parte il contributo musicale, penso. Chuang, l'immagine di un cavallo che sfonda un cancello, significato liberarsi, attaccare, caricare, sfondare, forzare l'entrata o l'uscita, agire con impeto. Chuang Guan, fare un blocco. Chuang Zuo, partecipare a un banchetto senza essere invitati. È la presentazione, autopresentazione di questo collettivo che si chiama Chuang, appunto, formato da vari elementi studiosi e attivisti militanti provenienti dalla Cina, di tendenza comunista, per essere così tagliando corto, e che hanno pubblicato un lungo contributo sulla loro rivista che si chiama appunto Chuang Number One, sì, questa è del 2016, è stata pubblicata in inglese e tradotta per noi nel 2022 invece col titolo Il sorgo e l'acciaio, il regime sviluppista socialista e la costruzione della Cina contemporanea. Noi stasera vorremmo non dico presentare, ma insomma invitare, così incuriosirvi a questa, andare a vedere questo lavoro che su Zardins Magnetics comunque continua il discorso iniziato in precedenza con l'altra pubblicazione sempre di Edizioni Porfido, che si intitolava Nutrire la rivoluzione, si riferiva invece un po' in generale, no? Continuiamo questo discorso su come il capitalismo appunto si sia fondato sul allontanamento dei mezzi di sussistenza dalle, chiamiamole, persone. Su questo allontanamento appunto è stato prodotto con l'urbanizzazione, per cui appunto le popolazioni delle campagne si sono spostate nei centri urbani e hanno progressivamente, insomma, nei secoli, per quanto riguarda l'Europa appunto e l'Occidente comunque, hanno abbandonato le campagne, diciamo così, le campagne nel frattempo si sono industrializzate, ecco. E tutto questo appunto di cui si parlava la scorsa puntata, spostandosi appunto nell'Asia orientale, tutto questo diciamo contesto oggi è abbastanza simile, no? La realtà della Cina del XXI secolo, abbastanza, delle campagne cinesi del XXI secolo, abbastanza simile a quelle desertificate nostre, in quanto che appunto a partire dalla metà degli anni 70 in poi Partito Stato Comunista Cinese ha dato la svolta verso il capitalismo di Stato, in quel caso, insomma, poi appunto è sempre più sfrenato. Noi però, a noi interessa comprendere il presente a partire da quello che è successo nel passato, non per ristabilire quello che è, quello che non è, ma perché ci interessa capire appunto i motivi per cui oggi, ad esempio, l'economia del colosso cinese sta rallentando, i motivi per cui sono possibili o no delle lotte nel campo, appunto nel contesto cinese. Dicevo, oggi appunto è praticamente identica lo scenario, no, dell'Asia orientale. Non sempre è stato così, anzi è tutto successo nel giro appunto di questa svolta qua finale. Noi in questo saggio qua, Il sorgo e l'acciaio, si prende in considerazione specifica il decennio tra due appunto capisaldi, che sono, diciamo, la vittoria della guerra civile contro il Partito Nazionalista da parte del Partito Comunista, quindi il 1949, la proclamazione dello Stato della Cina Popolare, e l'altra data termine è il 1958, che coincide con il grande balzo in avanti. Poi vedremo di cosa si tratta. Allora, nel 1949, in questo decennio, che sono gli anni 50, la Cina, e naturalmente anche in precedenza, a parte delle eccezioni che sono, vedremo poi quali, non la campagna cinese è diciamo è una realtà diffusa dove appunto l'elemento base è il villaggio, mentre il naturalmente questi sono schemi nostri, no, e, che ci servono per questa nostro così questo intervento nella trasmissione radiofonica, ma appunto l'urbanizzazione non si è verificata per determinati motivi storici, no? E la realtà urbana in Cina è limitata alle città portuali sulla costa, e dove appunto dicevo c'è una realtà urbana ma anche un inizio di industrializzazione. L'altra parte dove c'è l'industria, dove è stato, ci sono degli impianti industriali, è la regione della Manciuria, che fu durante l'occupazione giapponese, appunto i giapponesi impiantarono il loro sistema schiavistico di sfruttamento e di razionalizzazione estrema, e quindi quando furono cacciati gli impianti furono appunto acquisiti dallo Stato della Repubblica Popolare. In realtà già negli anni 30 c'era stato un tentativo da parte dei nazionalisti di far partire una specie di sviluppo, no, capitalista, che però trovò il problema della chiusura ai mercati, cioè del relativo isolamento, dell'isolamento della Cina rispetto ai mercati internazionali, la finestra che si aprì fu tra gli anni 20 e gli anni 30 con la crisi, come si dice, del la Grande Depressione, no? Degli Stati Uniti d'America in Europa, e quindi ci fu la ricerca di mercati nuovi, e quindi ci fu una partenza di industrializzazione anche in questa regione. E i punti importanti di questa fase qua furono che si andò avanti con delle figure organizzative nella fabbrica che rispecchiavano i precedenti sistemi di lavoro dell'epoca appunto repubblicana e prima ancora dell'ultimo impero, no? della fine dell'Ottocento, che erano molto molto non dico informali ma comunque assimilabili a queste figure di capobanda, insomma, che assumevano la manodopera e li gestiva in maniera da racket, diciamo così. Quando i comunisti vanno al potere, poi dico solo questo, poi ci fermiamo con un momento musicale, appunto quando vanno al potere, dicevo, il comunista al potere, cerca appunto per prima cosa di arginare questa situazione un po' di corrotta, no, del sociale, per cui allontana questi vecchi capibanda, i nazionalisti, funzionari, insomma, che avevano i livelli dirigenti delle attività, no? E un primo influsso pesante è stato quello, naturalmente l'unico governo in quel momento alleato, amico della Repubblica Popolare, era l'Unione Sovietica, per cui grandi aiuti e acquisizione di questo paradigma dell'investimento nell'industria pesante. We'll be right back. volevo solo, solo retro annunciare il brano prima, così quando abbiamo iniziato questo intervento sul sorgo e l'acciaio, era un praticamente tratto da un lavoro che ha fatto Michelangelo Antonioni, che si intitola Cina, praticamente, adesso c'è anche un titolo traslitterato dal cinese che però non mi sono segnato. Michelangelo Antonioni nei primi anni 70 fa questa dei contributi, insomma, dei film documentari, diciamoli, con una guida, diciamo, nella Cina popolare degli inizi anni 70, filmando queste, tra l'altro, queste, la realtà di questi, sia di cittadine, di metropoli come Pechino, e sia anche villaggi, che però erano dei villaggi speciali, erano i villaggi modello, erano delle speciali, cioè erano delle, chiamiamole così, costruzioni in senso neutro, propagandistiche, ecco, dove venivano accompagnati i visitatori per vedere come funzionava, no, l'organizzazione sociale del Partito Comunista Cinese. E stato recentemente, lo trovate su una nota piattaforma digitale, ecco. E dicevamo del andata al potere, sì, della presa del potere del Partito Comunista, quindi nei primi anni 50, e appunto dove trova questa realtà che dicevo, perché descrivevo poco fa, e nel specifico delle città portuali, appunto il paradigma sovietico, quindi la spinta verso l'industria pesante, verso la produzione quantitativa di, chiamiamoli, semilavorati, in un contesto come quello cinese, con un praticamente 2% della popolazione impiegata nell'industria e che viveva e vivente nelle città, in questa realtà di città portuali trova subito resistenza. Perché? Perché comunque le città portuali avevano fatto già un percorso nel mondo, appunto, delle lotte e dei lavoratori, insomma, sapevano quali erano le loro possibilità, quali erano le loro mansioni, quali erano i benefici a cui erano che si meritavano, e quindi subito queste richieste di straordinari, queste richieste di a cui non corrispondevano i benefici salariali, trovano delle resistenze, i primi scioperi, le prime rivolte. E notare bene che tutte queste la possibilità di rivoltarsi, di protestare, di scendere in strada, di organizzarsi, degli operai, appunto, da Shanghai in là, insomma, in tutte queste città, erano rese possibili proprio dal surplus agricolo che fornivano le campagne. Questa qua è una costante di tutti questi 10-15 anni. E la tesi, appunto, di quest'opera che stiamo presentando, Il sorgo e l'acciaio, era proprio il fatto che il contesto delle campagne cinesi forniva questo surplus, no, produttivo, perché perché i contadini erano in parte, diciamo, non sceglievano di stare in campagna, ma in parte anche erano obbligati a rimanere in campagna, non avevano possibilità di spostarsi se non per determinati motivi in determinati così, intervalli di tempo. Quindi non c'è da parte delle imprese la possibilità di aumentare i salari, e quindi al posto dei salari si paga, diciamo, si scelgono delle pratiche alternative per retribuire. E cosa sono? Il vitto, l'alloggio e altri benefici in welfare. Nel frattempo, sto andando veloce, nelle campagne parte il piano di collettivizzazione in due fasi. Prima, appunto, tutte le fattorie a conduzione familiare vengono spostate, diciamo, vengono trasformate in cooperative, e nel giro di pochi anni, perché appunto siamo in un decennio, queste cooperative vengono trasformate in comuni. Cosa vuol dire? Che c'erano nel giro di veramente 2-3 anni delle unità produttive composte in prima fase, appunto questa qua delle cooperative, di centinaia di fattorie, no? Quindi non era il ministero, cioè non era lo Stato, non era il partito che faceva che decideva, prendeva le decisioni produttive, e decideva i salari, diceva, insomma, quello che sì, dava gli ordini, ma erano queste realtà, grosse realtà cooperative, e subito dopo comuni formate da centinaia, alla fine, di centinaia di migliaia di membri, perché raggruppavano, insomma, decine e decine di cooperative. Quindi a quel punto lì il partito decide, appunto, questa svolta del grande balzo in avanti, quindi di aumentare in massa, insomma, aumentare senza limiti la produzione, e questo significava aumentare la produzione agricola per permettere l'industrializzazione. Non è che loro, come sotto il contesto capitalista, sceglievano di aumentare lo sfruttamento, cioè non potevano passare al controllo, no, del modo di produzione, quindi aumentare la produttività come ha fatto qui il capitalismo, no? Dovevano, cioè, a loro interessava in termini assoluti aumentare la produzione. Quindi questo come si faceva? Aumentando le persone che lavoravano. Questo però significava che c'era, a un certo punto, in queste grandi comuni non c'era più, non si sapeva più quello che si faceva, non si riusciva a controllare il lavoro. Allora, tra l'altro, le donne erano doppiamente in difficoltà in questa situazione, perché oltre a essere contadine erano anche, diciamo, condannate l'attività riproduttiva, no? Dovevano occuparsi di tutte le situazioni domestiche, e questo non era ancora riconosciuto in nessun modo, no? nella loro retribuzione. Succede che c'è un crollo della produzione nei primi anni 60, e una fuga nelle campagne, ovviamente, perché nelle città non arriva più il cibo. Semplicemente, no? Non arriva, sì. Vengono saccheggiati i magazzini, ci sono milioni di morti di fame. Proprio il PCC, il Partito Comunista, corre ai ripari, istituisce questo Hukou, che è un sistema di registrazione abitativo, per quindi se tu sei un contadino, sei produttore di grano, e sei assegnato a quella unità produttiva. Se tu sei consumatore, sei operaio, sei lavoratore di altro genere, e sei destinato a un'altra situazione. Non è che puoi liberamente spostarti, cambiare la tua vita. In questa però dualità c'erano anche questi, chiameremo oggi, precari, che sono lavoratori saltuari, che vengono chiamati proprio nelle situazioni in cui sì, ci sono degli sbalzi di, cioè ci sono dei momenti in cui non si riesce a controllare la situazione caotica e cala appunto, come in questo caso, la produzione. Primo punto. Secondo punto, Mao decide appunto questa campagna dei 100 fiori. Che cos'era? Era un invito, una campagna, un invito a criticare i dirigenti e le pratiche dirigenziali, cioè in ogni situazione appunto consigliare, chiamiamolo così, di assembleare, si era spronati a far la critica ai dirigenti o alle scelte di certi dirigenti, che questo in realtà, diciamo, la raffinatezza era appunto ma un escamotage per portare anche alla luce i nemici della leadership, e questo fu, insomma, ci fu un'ondata di epurazione generale con i 100 fiori, e la leadership aveva le antenne e sapeva quello che stava succedendo in Ungheria nel 56, perché comunque si arrivò anche all'organizzazione, ai sindacati autonomi, no? in questo momento qua, successivo al grande balzo in avanti. Ecco, questa è un po' la vicenda. Sì, praticamente se le cose fossero state lasciate, chiamiamo così, alla cieca, non so come dire, andare a briglia sciolta, no? Naturalmente le campagne sarebbero già state abbandonate in massa in quel momento lì, perché non è che la realtà, come si dice, rurale fosse granché attrattiva. C'erano una bassa intensità tecnologica, no? Proprio i contadini erano, sì, le brigate contadine erano rifornite di attrezzatura base, naturalmente le fattorie avevano delle dotate di certe infrastrutture, sono stati fatti dei grandi lavori, non so, di irrigazione, cose del genere, tutte fatte comunque con la fatica degli operai, non naturalmente meccanizzate assolutamente in questi anni di cui stiamo parlando, ma la separazione a questo livello tra campagna e città è puramente appunto artificiale, per modo di dire, naturalmente, perché è tutto artificiale. Comunque è artificiale perché è una scelta del partito, stato partito, che ha appunto con quel dispositivo di cui parlavo prima, ha obbligato i componenti del comune agricolo a lavorare per la produzione, eliminando la possibilità, tra l'altro, di svolgere l'attività di artigianato, che era una diciamo una tradizione, un'eredità del mondo, insomma, plurisecolare contadino cinese, che appunto prevedeva questa possibilità, per cui non c'è stato il passaggio, no, alla borghesia, per questo motivo, perché le lotte, le resistenze del mondo contadino, del mondo rurale nell'Asia orientale, nei secoli che vanno dal 1500 al XX secolo, hanno impedito il formarsi di questa realtà mercantile, ed era stata conservata questa dualità a piccola dimensione, no? con anche la possibilità di, diciamo, autogestirsi. E questo vuol dire anche che la collettivizzazione, no, come è stata vista in Occidente, in realtà era proprio l'ingranaggio fondamentale della spinta all'industrializzazione, che poi diventò senza fine, ma comunque non era la prova, non era nessuna prova che c'era un carattere socialista nella realtà cinese degli anni appunto di cui stiamo parlando, che sono quelli dei 50 e dei 60. Volevo dire ancora un'ultima cosa, Ah sì, l'ultima, chiaramente. Poi cosa succede? Si arriva progressivamente, va a lavorare una nuova generazione, praticamente i figli di quelli che avevano fatto la rivoluzione, che avevano vinto la prima rivoluzione, i loro figli, attorno alla fine degli anni 60, arrivano al mondo del lavoro, e quindi è lì proprio che scoppia, fra virgolette, la rivoluzione culturale. Cosa volevo dire? Una contestazione generale ad ogni livello di quello che era la realtà, il presente, ecco, diciamo così, di quella società degli anni 60 in Cina. Questo, dicono gli autori del Sorgo e l'Acciaio, era però un sintomo del fatto che anche nella situazione di isolamento rispetto al internazionale, no? Sono proprio i lavoratori saltuari e i giovani a protestare di fronte ai licenziamenti, a protestare per la loro condizione e a cominciare a organizzarsi. In risposta a questo, il Partito Stato, preoccupato che si estenda la protesta e che sostanzialmente lo Stato si sgretoli, cioè la realtà si sgretoli, no? Perché era quella il limite della loro orizzonte, che è ancora oggi questo sostanzialmente, corse ai ripari, appunto, e fece partire la rivoluzione, la chiamò rivoluzione culturale. Quindi ancora passò alla direzione di questo movimento, con pro e contro, perché alcune furono, ci furono dei benefici, guadagnarono concessioni, chiamiamole così, ma ci fu anche grande repressione, momenti di sconfitta. Conclude così il collettivo Chuang: le nuove correnti quindi andrebbero interpretate come una sorta di tendenza eretica in conflitto con l'ideologia dominante, ma ancora sussunta ai temi dell'ideologia stessa. Incapace di oltrepassare i limiti della mitologia del Partito Stato, l'ultrasinistra non fu in grado di intravedere alcun reale sviluppo per il futuro. Non riuscì a evitare la propria stessa distruzione, tantomeno fu capace di dar fiato alle potenzialità emerse dei conflitti dell'era socialista. Il passo falso più grave risultò, in ultima istanza, postulare che Mao potesse schierarsi al proprio fianco quando fu proprio su ordine del presidente che l'ultrasinistra venne sterminata. Quelli che sopravvissero all'ondata repressiva fuggirono alla spicciolata nei paesi limitrofi, nel tentativo di trasformare una situazione rivoluzionaria interna in guerra esterna. I restanti furono imprigionati o finirono dispersi fra le maglie del terrore. Per concludere, nel mettere in evidenza l'attualità di questa sequenza storica, è opportuno sottolineare come la breve rivoluzione culturale, che è prendere in considerazione proprio gli anni dal 66 al 70, la breve rivoluzione culturale conservi anche il valore intrinseco di tutte le tragedie e le cause perse, che squarciano con le proprie ombre il fievole lume della storia. Ai compagni di oggi il rispetto e il riconoscimento per questi partigiani comunisti, che in quel frangente, per quanto dispersi, disorganizzati e disorientati, di fatto si batterono, uscendone sconfitti. Questi individui, nei quali riconosciamo il nostro stesso moto d'animo, furono uccisi, imprigionati o, peggio ancora, riformati dai tetri trionfatori di questo mondo vacuo da noi ereditato. Il minimo che possiamo fare è rendergli omaggio, dal momento che i loro nemici sono anche i nostri. L'argent de Zikos, ci teniamo ancora ultima velocemente un'importante notizia che vi diamo. Allora, avevamo parlato qualche puntata fa della situazione del compagno Miguel Peralta, che è sotto processo in Messico a Oaxaca. Ci scrivono che venerdì 20 febbraio alle ore 18 locali, che sarebbero le 7 ore di differenza, alle 11 giusto di mattina, venerdì, si sentenzierà il compagno. Gli scenari più probabili sono la sua totale assoluzione o la condanna a 50 anni di carcere. Già oggi, giovedì, sono partiti due bus dalla sua comunità di El Oxochitlán de Flores Magón e altri dalla città del Messico per iniziare un presidio sotto il tribunale di Oaxaca. Nella pagina Instagram e Facebook di Libre S.A. sarà pubblicato il link per assistere all'udienza in video. E solidarietà con lui e la sua comunità, ora più che mai, e in ogni caso. Ecco, ma quindi seguiremo anche l'esito di questa sentenza anche nelle prossime puntate. Ecco, bene, ora è terminato questo brano, ma noi comunque rimaniamo sempre all'ascolto di questa band francese, la Fraction, da questo loro album omonimo datato 1998, e appunto lo lasciamo in sottofondo per approfittare che siamo per approfittare con i saluti, ma anche soprattutto volevo ricordare che prima abbiamo ascoltato anche il Litige, altra band francese, ma forse quello l'avevo già annunciato, ma siamo con i tempi tiratissimi, siamo proprio al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30, anche oggi 19 febbraio 2026, ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. I nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica, sono liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. La trasmissione questa di odierna, ma anche quella delle volte scorse, potete riascoltare sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. Salutiamo anche chi ci ascolta domani venerdì in replica al mattino dalle ore 11 su Radio Eustachio e dalle ore 17 sempre di domani su Radiazione. Queste due sono due web radio. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio ancora con un ultimo brano della Fraction.